Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, da Deborah Rosciani bentrovati a Salva Danaio. Mai come quest'anno, dati gli effetti della crisi, vale il ritornello della canzone Stessa spiaggia, stesso mare. Sì, perché tante famiglie probabilmente hanno accantonato l'idea di un bel viaggio, magari all'estero, preferendo l'Italia, magari non in altissima stagione come agosto, ma anticipando a queste settimane di luglio o posticipando al mese di settembre nelle vacanze. E quindi se non si sceglie la montagna, si sceglie il mare. Ma la scelta con quale criterio va fatta quest'anno? Negli anni passati, quasi sempre in questo periodo, ci siamo occupati con Salva Danaio del caro spiaggia e del salasso non indifferente a carico della famiglia media per trascorrere una giornata in spiaggia, anche se va detto che da qualche anno i gestori degli stabilimenti stanno mantenendo prezzi invariati di ombrelloni e sdraio. Quest'anno, con la crisi che morde ancora durissima, peraltro avrete sentito anche stamattina la trasmissione di Oscar Giannino dedicata al crollo delle erogazioni di mutui immobiliari, magari anche noi torneremo ad occuparcene presto, anche questo un altro aspetto della crisi che morde tanto. E allora quest'anno, come vi dicevo, di fronte a questo inasprimento delle condizioni di crisi, le organizzazioni dei balneari si sono presentate all'appuntamento con la stagione estiva un po' nervose, intanto perché le condizioni meteo hanno fatto partire la stagione molto tardi, ma anche armati appunto di molte iniziative per attrarre clienti. Tra l'altro, tutto questo in un contesto di vivace protesta delle imprese balneari che per la prima volta in piena estate riuniscono gli stati generali, e giovedì 12 luglio incontreranno appunto, credo, a Roma anche le organizzazioni del governo per sollevare l'attenzione sull'applicazione della direttiva europea relativa alle concessioni demaniali marittime. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma soprattutto quello che oggi ci interessa capire è fare un giro per tutta Italia per così monitorare un po' tutte le iniziative che le organizzazioni stanno mettendo in campo, come vi dicevo prima, per attirare clienti e soprattutto per far trascorrere a tutte le famiglie italiane qualche momento di tranquillità in spiaggia senza per forza di cose dover mettere mano continuamente al portafoglio e quindi chiaramente rendere un po' più indigeste le vacanze, che già lo sono per tanti motivi. Per cui andremo un po' in giro per tutta Italia, perché tra gli interlocutori che abbiamo scelto questa mattina, che fra poco vado a presentarvi, a parte il fatto che rappresentano le organizzazioni più importanti appunto dei balneari, le abbiamo scelte anche perché ognuno rappresenta un territorio, un'area balneare. Siamo andati da nord a sud per monitorare che iniziative si stanno prendendo su tutte le nostre spiagge, anche magari per dare qualche indicazione utile a chi sta facendo la sua pianificazione di meta in questo momento. Quindi dove vado, dove posso spendere meno, lo scopriremo stamattina con Giancarlo Cappelli, vicepresidente di SIBE, il sindacato italiano balneari. Con lui rappresentiamo l'area della Romagna. Cappelli, buongiorno, oltre che naturalmente il sindacato nazionale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie e benvenuto. Benvenuto anche a Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari e, come dire, rappresentante dell'area Ligure. Licordari, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto a Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneatori, e in questo caso andiamo in Abruzzo per la rappresentanza della zona del centro-sud. Tomei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a voi. E infine abbiamo anche la Toscana, tra l'altro un uomo del quale si è parlato molto sui giornali in questi giorni, poi vi racconto il motivo. Oreste Giannessi, gestore dei bagni Nettuno di Viareggio e responsabile di Movimento Balneari.it per la Toscana, naturalmente. Giannessi, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io voglio tante testimonianze anche da parte degli ascoltatori questa mattina. 800 24 00 24, qual è il vostro balneare preferito, ma soprattutto che prezzi vi pratica il gestore dello stabilimento che avete scelto. Già ieri avevo sollevato la discussione su Facebook e poi vi racconterò tutte le testimonianze che ci sono arrivate, ce ne sono sicuramente di molto interessanti. Quindi vi ho dato il numero verde per i vostri interventi in diretta. In alternativa, come sempre, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete andare a continuare ad alimentare anche il dibattito su Facebook. Il nostro indirizzo è sempre lo stesso, salvadanaio-radio24. La borsa la voglio raccontare solamente in pochi istanti, perché ne abbiamo già parlato a lungo nel giornale radio. La giornata è molto positiva, era partita male la seduta in Europa e in qualche maniera gli operatori stavano un po' esaminando anche i risultati dell'Eurogruppo di ieri. Poi c'è stato il dato sulla produzione industriale italiana e pensate, è stato proprio questo il dato che ha dato un grande slancio alle borse. Milano guadagna addirittura quasi 2 punti adesso sul FTSE MIB, lo spread è sceso a 4,60, gli altri listini, Parigi più 1,27, Francoforte più 1,27 e l'euro è sopra quota 1,23 sul dollaro. Grazie a questo dato sono proprio titoli industriali che stanno correndo stamattina a Milano: Finmeccanica più 6, Exor più 3,79, Fiat più 3,71, Prismian più 3, Tenaris più 3, tra le banche più 3 punti per la Popolare di Milano e per Mediolanum. Questa è la borsa, noi però andiamo al tema di oggi e quello che abbiamo scelto è proprio così fare un po' un monitoraggio, come vi dicevo prima, sulle spiagge italiane per capire se ci sono delle iniziative anticrisi. Mai un lamento, è cambiato come cambia il vento, vento d'estate. Io vado al mare, poi che fare? Non mi aspettate, forse mi perdo. Ho pensato al suono. Non abbiamo scelto le solite canzoni per aprire questa trasmissione. Oggi ci siamo affidati a Nicolò Fabi e Max Gazzè per questo vento d'estate, che è un vento di crisi, come sapete bene, quindi è un vento che sta condizionando molte scelte da parte delle famiglie italiane anche per quello che riguarda le vacanze. Noi oggi non andremo a monitorare le varie mete scelte, ci concentreremo sulle spiagge per capire che iniziative anticrisi stanno prendendo i gestori degli stabilimenti per attirare la clientela, per mantenere quella di sempre, perché anche questo è importante, perché magari qualcuno che in passato affittava per un mese, per 2 mesi, sdraio e ombrellone, magari quest'anno queste famiglie hanno ridotto il tempo di permanenza nello stabilimento di sempre e quindi si sono ridotti i tempi di permanenza e si sono fatte appunto delle scelte precise che i balneari naturalmente stanno appunto affrontando in questo momento. In questi ultimi giorni sono comparse sui giornali molte inchieste che parlano di spiaggia sostanzialmente low cost, offerte low cost degli stabilimenti balneari, perché anche la spiaggia è entrata in crisi. Giancarlo Cappelli, vicepresidente di SIB, Sindacato Italiano Balneari, è così? Ma certamente che è così, perché la stretta economica e poi noi in Romagna, che io rappresento l'Emilia Romagna, abbiamo avuto anche i terremotati nell'area che è un bacino molto importante per noi, e quindi si è sviluppato un tipo di concorrenza che va a beneficio dell'utente e non delle aziende. Tant'è vero che noi abbiamo inventato anche il passepartout in tempi passati, perché si prevedeva che c'era una stretta economica e di presenza e di conseguenza. Però una cosa di questo tipo non l'abbiamo mai avuta. Noi abbiamo poche presenze, abbiamo recuperato adesso a luglio, ma però forse anche per le condizioni. Sì, maggio e giugno praticamente sono andati a male dal punto di vista meteorologico, perché davvero ogni weekend è stato pessimo, quindi purtroppo ci siamo messi. È stato terribile, quindi noi in luglio stiamo recuperando, però calcoli che le nostre aziende sono entrati hanno assorbito una mentalità che è di accaparrarsi a tutti i costi un cliente, perché anche il 20-30%. Cosa vuol dire accaparrarsi a tutti i costi un cliente, mettendo in campo iniziative commerciali molto molto forti? Difatti, vuol dire che dal lunedì al giovedì ci sono dei prezzi molto molto ridotti che raggiungono anche il 50%. Venerdì, sabato e domenica molti fanno pagare 2 giornate su 3 che vengono utilizzate. Quindi io credo che se noi mettiamo in campo tutti i servizi che diamo che sono gratuiti, le docce calde, l'animazione, il campo da giochi, il beach volley, la pallacanestro, i campi di bocce, per noi i più giovani, io credo che più di così non possiamo fare. Tempi duri, Cappelli. Tra l'altro la Romagna è la zona preferita e più gettonata anche dai giovani che già hanno dei bilanci molto magri, perché magari vivono della paghetta della famiglia, no? Quest'anno addirittura fanno molta fatica ad entrare nel mercato del lavoro, abbiamo visto a quale tasso è la disoccupazione giovanile, per cui a maggior ragione dovete intensificare le iniziative di intraprendenza commerciale in qualche modo, anche per favorire questa popolazione che è quella che vi sceglie di più. Ma certamente, noi innanzitutto abbiamo un po' la nomea della zona che riesce a coniugare il servizio alla famiglia, ma soprattutto anche ai giovani, perché i giovani vogliono un altro tipo di turismo, il divertimento è quello che loro cercano e noi glielo stiamo procurando. Lei pensi che negli stabilimenti balneari si fanno delle feste, si fanno delle animazioni anche per adulti, cerchiamo di fare tutto quanto quello che abbiamo a nostra disposizione per poter attirare. Benissimo, l'attenzione. Allora, ci sono alcuni aspetti che ci stanno sollevando alcuni ascoltatori, intanto sulla cattiva pratica di non rilasciare scontrini e ricevute fiscali per praticare appunto questi stabilimenti balneari, poi ne parleremo con i nostri interlocutori, tanti altri che ci sollevano anche un altro aspetto che è anche vero, che addirittura qualche volta conviene di più andare all'estero perché le nostre spiagge, almeno in certi tratti, quelli più rinomati, costano molto. C'è Piera che per esempio ce lo racconta: non dica che gli italiani fanno vacanze in Italia per risparmiare, perché andare in Tunisia, le Baleari, in Grecia quest'anno prezzi davvero eccezionali, in Egitto costa molto meno. È vero, Piera, adesso lo commenteremo anche questo con i nostri interlocutori, però c'è anche da dire che qualche volta per raggiungere queste località bisogna chiaramente prendere un aereo, e qualche volta l'aereo è anche un po', come dire, uno strumento impegnativo per nuclei familiari molto ampi che per raggiungere magari le località di vacanza preferiscono la macchina, per questo che preferiscono l'Italia. Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari, andiamo in Liguria. Qual è la vostra sensazione per come si dovrà affrontare la stagione quest'anno, le iniziative liguri per mantenere sulle vostre belle spiagge la clientela? Intanto avete avuto molti clienti non più affezionati per questioni economiche quest'anno? Ma dunque, non è che sulle spiagge liguri la situazione sia diversa dalle altre spiagge, nel senso che sì, abbiamo le bellezze naturali, abbiamo tante cose che attirano, ma dobbiamo essere anche noi, come gestori di stabilimenti balneari, a mettere in campo qualità di servizi, novità che la gente comunque continua a chiedere in un clima di crisi economica. E voglio anche comunque ricordare, in un periodo in cui non viene più garantita la continuità agli imprenditori balneari a seguito dell'applicazione della direttiva servizi, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein, normativa europea che vede le concessioni demaniali messe in discussione. Perciò quando dico le concessioni demaniali dico le aziende, le imprese praticamente per il 90% familiari che sono che rappresentano questo comparto. Perciò diventa difficile in un clima del genere diventare concorrenziali, ad esempio a paesi che lei ha citato prima, la Grecia, la Turchia, eccetera, che con minore difficoltà, con costi inferiori, perché comunque hanno pressioni fiscali diverse, hanno situazioni economiche diverse. Oggi la Grecia, che si trova a essere in un momento di difficoltà economica, diventa competitiva perché comunque tutti si rimboccano le maniche, i prezzi sono più bassi e ovviamente la gente va dove si spende di meno, e non è un posto che è di secondo livello, ma anzi al mare forse migliore di tutto il Mediterraneo. Perciò la nostra concorrenza è forte, e vediamo che nonostante i nostri sforzi, come ad esempio l'iniziativa che lei accennava in apertura del low cost, cioè il fare prezzi dell'ultimo minuto, iniziative che ha spiegato adesso il collega Cappelli, fatte in Romagna per cercare di invogliare la gente a frequentare lo stabilimento balneare anche fuori dal periodo del weekend, durante la settimana. Ecco, sono tutte cose che però fanno a pugni con quello che oggi lo Stato, il governo italiano, ha messo praticamente in discussione, non difendendo la peculiarità caratteristica del nostro paese, cioè la cultura della balneazione, nei confronti di norme europee che ci sono state praticamente imposte, non andando in deroga all'applicazione di queste norme, come invece è avvenuto per tante altre situazioni dove si è detto ma in Italia la situazione non può essere paragonata alla Germania, il prodotto italiano è un prodotto diverso da quello francese piuttosto che da quello belga o piuttosto che dalla penisola scandinava, va tutelato e va organizzato in un altro modo. Ricordare, io la affermo, la questione della direttiva Bolkestein è anche piuttosto complessa. Detto questo, direi a questo punto di farle anche spiegare che cosa farete giovedì 12 luglio a Roma, quando si riuniranno gli stati generali delle quattro sigle sindacali dei balneari italiani, che cosa intendete fare, perché addirittura so che state minacciando di fermare la produzione dei servizi di ospitalità e di accoglienza turistica in tutto il nostro paese, addirittura uno sciopero generale dell'industria del turismo balneare, che sarebbe un evento inedito per il nostro paese. È un evento inedito perché è collegato proprio a questa applicazione inedita di un sistema che è consolidato. Voglio soltanto ricordare che i primi stabilimenti balneari che sono nati nel Mediterraneo sono nati in Italia e hanno origine alla fine del 1700. Perciò la nostra cultura della balneazione è sicuramente una cultura completamente diversa dagli altri paesi, e abbiamo in modo inedito, per usare il suo termine, una rivoluzione di questo sistema, un sistema che è stato consolidato per oltre due secoli, che ha radicato culturalmente, che ha consentito di radicarsi culturalmente a questo sistema e che ha garantito nel corso degli anni una qualità che ci è invidiata da tutti gli altri paesi. Mi dice cosa farete il 12 luglio a Roma? Guardi, adesso non so cosa faremo, però sicuramente metteremo in campo delle iniziative finalizzate a sollevare l'attenzione del governo. Sì, perché il governo deve capire che comunque noi non possiamo accettare di far azzerare soltanto per una noncuranza, per una incapacità a gestire questa situazione, un sistema che oggi sta funzionando, perché è tragicomico. Lei ha parlato prima della crisi, i ragazzi che non trovano occupazione, un sistema consolidato. Qui siamo contenti, lei ha letto prima le notizie della borsa, un più 2% ci fa sorridere, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un settore che sta funzionando, perché comunque è un settore che tirava, e siamo riusciti invece a metterlo in crisi da soli. Benissimo, ci fermiamo, ricordare, perché devo andare in pausa adesso, la nostra prima pausa, sono anche già fuori tempo massimo, poi però andremo anche a parlare delle motivazioni per cui ad Alassio Levanto, come ci spiega Enzo da Milano, che ci scrive, tutto costa di più rispetto anche alla Costa Azzurra in Francia, è tutto riconducibile a questo problema che lei ci spiegava poco fa. Ci stanno scrivendo tantissimi ascoltatori questa mattina, molto sensibili sulla questione che stiamo affrontando, il costo dello stabilimento balneare che si sceglie. Molti naturalmente polemizzano sulla questione della concessione data ai gestori degli stabilimenti, appunto delle aree che naturalmente presidiano, una questione che dovrebbe essere rivista e rivisitata in funzione della direttiva Bolkestein, questa direttiva europea. Non avrei voluto parlare esclusivamente di questa questione, ci è stata però naturalmente sollevata, anche perché deve essere necessariamente sollevata, visto che per la prima volta in piena estate si riuniranno gli stati generali delle imprese balneari e l'industria del turismo balneare italiano potrebbe incrociare le braccia in una giornata delle prossime settimane, proprio per sollevare l'attenzione del governo sulla necessità di rivedere, almeno per quello che riguarda l'applicazione italiana, questa direttiva. Detto questo, andrei anche al tema che in realtà voleva essere il tema principale della nostra trasmissione, cioè quanto intenderanno spendere quest'anno le famiglie italiane per la spiaggia, per chi per esempio negli anni passati affittava per un mese mese o per molte settimane comunque ombrellone e sdraio per tutta la famiglia, quest'anno ha rivisto il suo budget di spesa, affitterà per meno settimane. Quindi che cosa intendete fare? Ce lo state raccontando in molti e molte continuate a sollevare l'attenzione sul fatto che comunque in Italia costa tutto molto di più rispetto al resto d'Europa, dove ci sono comunque delle belle spiagge. Abbiamo citato prima la Grecia, addirittura la Costa Azzurra. Un ascoltatore alla Dispoli, Roma, ci dice che ha pagato 380 euro tutto luglio, prima fila, ombrellone, sedia e lettino. Mi dice l'ascoltatore, non mi sembra poco. Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneatori, prima l'ho presentata come il rappresentante praticamente per il centro sud delle aziende balneari. Che cosa ne pensa di questi ascoltatori che si lamentano di questo fatto? C'è ancora la percezione che voi siate quegli imprenditori che pretendono di lavorare 2-3 mesi l'anno per campare poi tutto il resto dell'anno con gli incassi di questa stagione? Questo è il solito pregiudizio, so che probabilmente lo dovete discutere spesso anche con chi vi guarda, anche con questo tipo di visione. Ma guardi, innanzitutto buongiorno anche agli altri miei colleghi. Questa visione oramai è quasi del tutto superata, anche perché sotto il profilo fiscale oramai è un dato che proviene dall'Agenzia delle Entrate, l'81%, è un dato del 2009, delle imprese balneari sono risultate congrue e compatibili con lo studio di settore. Quest'anno sarà introdotto il nuovo studio di settore 2012, che peraltro si abbina anche all'obbligo della certificazione dello scontrino, l'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale, quindi si rintroduce questo obbligo che era stato, diciamo, abbandonato dal 1996. Credo che in Italia si stia trovando un po' un equilibrio, stia trovando un suo equilibrio tra una serie di situazioni negative che fanno parte della recessione. Non dimentichiamo che appena un mese fa le famiglie italiane hanno pagato l'IMU ed è stato un bel salasso. Teniamo conto del caro benzina e teniamo conto che se vi è anche una lamentela, significa anche d'altro canto che vi è un attaccamento degli italiani alla spiaggia, che durante l'estate diventa un po' come la seconda casa, o perlomeno, anche se ci troviamo all'aperto, il luogo dove poter trascorrere il maggior tempo delle proprie ore, perché magari a casa c'è calura, fa caldo, e poi quando si viaggia per andare in vacanza, le spiagge rappresentano la meta preferita dagli italiani, e si tende a tornare dove si è stati non solo per un motivo di affezione, perché ci si è trovati bene. E quindi questi aspetti noi non li prendiamo in modo totalmente, queste, chiamole così, lamentele o critiche, telefonano in tantissimi anche le nostre associazioni territoriali, nazionali, regionali, e sono degli aspetti, io credo, anche un po' di vicinanza. Quanto un po' si questiona all'interno della famiglia, non è detto che le cose debbano andare male, anzi è importante, perché si parla, per noi sono dei segnali importanti per poter migliorare. Ecco, ma ci dice che iniziative sono state prese dai balneari del centro sud per favorire le famiglie? Sì, la cosa più immediata è quella di cercare di offrire l'ombrellone gratuito nelle ore pomeridiane, il pomeriggio, ma a condizione che si consumi un pasto, cioè nel senso si cerca appunto di far tornare sulle spiagge il pomeriggio, nei giorni feriali, i clienti e i consumatori soprattutto. Ecco, però so che generalmente sono iniziative anche abbastanza individuali, non ci sono sinergie, non ci sono necessariamente iniziative di sistema, perché poi non è che si può costringere un singolo imprenditore. Questo è verissimo, infatti lei ha definito bene prima il turismo come un'industria. Qui in Italia noi vediamo che chiude in media una fabbrica ogni mese, e invece l'unica cosa che abbiamo che regge è proprio questa industria del mare turistica, e questo tipo 30.000 imprese in Italia, giusto? 30.000 imprese, ma con tanto l'intotto rappresentiamo circa l'8% del PIL nazionale. È una unicità, un unicum in tutto il panorama continentale, con questo sistema, come lo ha ben definito lei, che non si riscontra in nessun'altra nazione europea. E questo è un aspetto che non va difeso solo dalla singola impresa balneare. balneare, ma è un aspetto che anche a livello regionale va anticipato, perché noi sapevamo benissimo, sappiamo di questi aspetti di recessione che avremmo dovuto sopportare nei mesi di giugno e di luglio, confidando in un atteso recupero che cerchiamo di attendere, di avere appunto nel mese di agosto. Tomè, io però le voglio leggere questo messaggio, vostre considerazioni sono del tutto condivisibili. È bene che lavoriate bene con serenità, perché dovete prendervi cura anche delle spiagge che vi vengono concesse, perché sono il nostro vanto, sono il nostro biglietto da visita in tutto il mondo. E però Davide ci scrive: i balneari pagano pochissimo per le concessioni e incassano molto dai bagnanti, spesso senza alcuna ricevuta. L'anno scorso a Gatteo a Mare mi è stata fatta una ricevuta del 50% del costo pattuito verbalmente per un mese di permanenza. Quest'anno a Lavagna, non sono aree di sua competenza, ma credo che un commento me lo possa fare ugualmente, per due persone, due giorni, 25 euro rigorosamente in nero, solo a Gabicce due giorni con ricevuta. I bar delle spiagge poi non emettono scontrini. Io preferisco gli stabilimenti in regola che non fanno nero. Ma voi questo problema come lo affrontate? Non ne va anche della vostra reputazione essere comunque sempre citati? Io le racconto: mia sorella, due bambini piccoli, quest'anno per la prima volta ha ricevuto dal suo stabilimento, anche per paura probabilmente dei blitz simil Cortina, per la prima volta era ricevuta appunto per un mese di noleggio di sdraio e ombrellone. E non sempre siamo nelle condizioni di poter dire: se lei non mi fa la ricevuta io me ne vado, perché qualche volta il gestore dello stabilimento saluta anche il potenziale cliente. Tomei. Ma io credo che siano anche dei casi isolati, ma comunque in qualche maniera questo problema non si potrà più presentare e manifestare, perché da quest'anno ormai con l'obbligo della reintroduzione dell'obbligo dello scontrino fiscale questi aspetti ormai sono del tutto superati. Quindi prima non c'era l'obbligo, anche per capire, non è che avete viaggiato no, sempre dal 1996 fino al 2011 l'obbligo per i servizi di spiaggia non vi era l'obbligo di emissione di certificazione fiscale. Da quest'anno questo obbligo è stato reintrodotto e noi vedremo anche, come dicevo prima, con lo studio di settore, vedere emerso un dato più complessivo che rappresenterà quasi le 30.000 aziende, per cui vedremo i numeri e i dati, li vedremo bene tra novembre e dicembre. Io sono convinto, e sono anzi ultra convinto, che manterremo la stessa congruità e compatibilità del 2009 per quanto riguarda l'aspetto fiscale. È chiaro che nel 2009, siccome gli studi di settore sono diversi, alcuni stabilimenti balneari affluivano anche ad altri studi di settore tipo pubblici esercizi, gelaterie, pizzerie, ristoranti. Da quest'anno invece ciò non sarà più possibile, ma vi sarà un unico studio di settore, l'UG60U, così è denominato, che individuerà in modo esclusivo solo gli stabilimenti balneari. E quindi io ritengo che ne potremo parlare con i dati alla mano tra novembre e dicembre, e quindi capire se si deve migliorare, se si deve correggere qualcosa, ma io sono sicuro che raggiungeremo di nuovo la congruità. Benissimo, allora intanto vi leggo qualche messaggio che ieri ci hanno scritto degli ascoltatori, che state scrivendo in tantissimi stamattina. Qualcuno che ieri ha scritto su Facebook: Piero, stessa spiaggia, stesso mare, cordialità, simpatia, sdraio, lettino, sedia, ombrellone, dai 380 ai 400 euro al mese, lo reputo caro, in Liguria tutti appiccicati. E poi Annabella: ombrellone, due lettini, 500 euro per tutta la stagione, ma la proprietaria è un'amica. Bottiglietta d'acqua 80 centesimi, un altro bel problema, perché arrivano a costare anche 3 euro, ma il distributore, se la vogliamo prendere, non dà il resto. Acqua gym due volte al giorno e animazione per bambini 3 volte alla settimana gratis. Fanesi, brava gente. E tanti altri ancora, qualcuno che non ci vuole dire dove va, perché Massimo, per esempio, ci scrive: mi spiace, ma non posso dirti, Deborah, dove vado, perché non pago il parcheggio, non pago per lettini e ombrelloni messi a disposizione gratuitamente, altrimenti ci ritroviamo in troppi. Bottiglietta d'acqua però ad 1 euro. Andiamo in Sicilia. Angelo da Catania, buongiorno. Una famiglia di 4 persone, quanto le costa una giornata in spiaggia? Beh, io volevo condividere la mia esperienza. Io, come lei ben diceva, rappresento la tipica famiglia che va a mare il sabato e la domenica per ragioni anche lavorative. Oggi andare a mare nelle zone di Catania o alla playa o la zona degli scogli, per una famiglia, considerato il pranzo che si fa normalmente presso la struttura dove si va, ci vogliono circa 70 euro per una giornata di mare. E io penso onestamente che non si pensi alle famiglie in questi casi, perché spesso e volentieri siamo costretti a scegliere tra sabato e domenica perché ci può essere un costo troppo alto andare 2 giorni insieme al mare, 8 giorni in un mese. E certo, in mezzo alla settimana non si può perché a luglio ancora si lavora, non sono tutti quanti in ferie, si può risolvere qualche volta, molte famiglie lo fanno, evitando il pranzo al ristorante, evitando di comprare i panini sul posto, magari ci si portano molte cose da casa, ma allora anche lì magari per la mamma in questione che razza di riposo è se poi deve organizzarsi tutto completamente da casa. Quindi Angelo, lei va dai 50 ai 70 euro per spendere per la sua famiglia per una giornata al mare. Giusto? Molti sentimenti proibiscono di poter portare il mangiare all'esterno. Ah, ecco, infatti c'è anche questo problema, ha fatto bene a sollevarlo. Angelo, la ringrazio. Oreste Giannessi, lei è uno di questi. La Repubblica le ha dedicato addirittura l'attacco del pezzo dall'ombrellone a rate ai pacchetti famiglia, ora la spiaggia è low cost, e si parla del suo bagno Nettuno di Viareggio, dove si dà ombrellone, 2 sdraio e 4 ingressi per 12 euro. E ci racconta un po' meglio intanto in questa sua offerta in che cosa consiste. Ma soprattutto io voglio capire ancora quante spiagge fanno pagare l'ingresso. Giannessi, buongiorno. Allora, partiamo subito. Non esiste l'ingresso. Non esiste l'ingresso, cioè nessuno fa pagare l'ingresso. Io non so come mai ogni tanto viene detta questa cosa, ma l'ingresso è gratuito. Ogni persona può passare attraverso lo stabilimento balneare e andare sulla riva del bagno come da legge per fare il bagno, quindi nessuno fa pagare l'ingresso. Allora cosa vuol dire l'attacco di questo pezzo che cita tra l'altro proprio anche il suo stabilimento? Bisognerebbe chiederlo a chi l'ha scritto. Ah, ecco. Comunque, quindi è un errore. Noi è l'ombrellone con 2 sdraio e lettino in una zona che abbiamo riservato, l'abbiamo chiamata zona Sun, costa 12 euro. Solitamente vengono famiglie di 4 persone, famiglie di ragazzi in gruppo che si organizzano, 4 persone per 4 persone, spendono 3 euro a testa. E ecco, ma nessuno fa pagare l'ingresso, cioè la divisione del costo dell'ombrellone per 4 fa 3, quindi ecco che viene 3 euro a testa. Quindi con questi 12 euro c'è comunque l'utilizzo di un ombrellone, di uno sdraio. Un sdraio, un lettino, la custodia dei valori, lo spogliatoio, gli spogliatoi perché ce n'è più di uno, abbiamo TV, campi da beach tennis, campi da beach volley, tutto compreso nel costo di 3 euro a persona, che naturalmente sono 4, perché se viene uno da solo e l'ombrellone costa 12 euro, è 12 euro, ma solitamente si organizzano tutti per venire 2, 3, 4, quasi tutti 4 persone. Ecco l'offerta, 3 euro a testa. Ma vorrei dire che questo tipo di offerta in Toscana, a Viareggio, quindi nella mia zona, ma in Toscana, ce ne sono a centinaia, ce ne sono a migliaia, solamente che in questo periodo, questo inverno, noi abbiamo fatto una grande opera di pubblicità su Facebook e anche con le agenzie di incoming della zona qui della Toscana, e la notizia ha avuto risalto, ma vi assicuro che qui su Viareggio e sulla Versilia e sulla Toscana in generale ce ne sono decine. In molti vi siete rimboccati le maniche. Certo, ma non è il primo anno, tanti altri anni. Infatti, quindi da un bel po' di tempo che state, come dire, lottando, ma per fare che cosa, Giannessi? Per catturare nuova clientela, perché questo è giusto che sia così, ma anche perché avete notato che magari le famiglie che tradizionalmente vi frequentavano da sempre hanno dovuto un po' rinunciare a qualche settimana di vacanza presso il vostro stabilimento come quello di qualcun altro per la questione della crisi, appunto, e quindi avete in qualche maniera riorganizzato la vostra offerta commerciale per dare a queste famiglie l'opportunità di mantenere questa fedeltà. No, sinceramente il l'abbiamo fatto, ma lo stiamo facendo già da anni, perché capiamo che la forza economica di una famiglia o di ragazzi è minore, quindi andiamo incontro alla domanda. Quindi noi non facciamo altro che andare dietro al mercato. Negli stabilimenti balneari c'è libera concorrenza, c'è un mercato aperto da sempre, quindi tutti fanno i loro prezzi, c'è chi offre l'aperitivo gratis alle 6, c'è chi offre la festa dopo cena, c'è chi offre il lettino sulla riva a un costo di 5, 6, 7 euro, c'è chi invece mantiene il prezzo alto per quelli che vogliono trovare l'asciugamano lavato, il giornale, l'orchestrina quella mattina quando arrivano allo stabilimento balneare. Io le parlo da toscano, che in Toscana, in Viareggio, in Versilia, ma in Toscana in generale abbiamo ogni tipo di offerta. Forse, ahimè, prendo una colpa, abbiamo fatto poca pubblicità fino adesso, ma negli ultimi 2 anni stiamo andando avanti, stiamo pubblicizzando tutte queste offerte che facciamo, e sembrano novità, ma in realtà è una costante che viene da anni, questa delle offerte, delle promozioni e degli eventi. Poi volevo dire che per quanto riguarda il discorso del noi facciamo tutti questi servizi, però in realtà è vero quello che dicevano prima i miei colleghi, li facciamo sempre con un cuore molto piccolo, perché sappiamo che tutto questo mondo sta per andare all'asta nel 2016. Ci sono aziende che stanno già chiudendo ora, sono quelle dell'indotto, cioè chi fornisce tutte le attrezzature balneari in Italia sta chiudendo. Io so, perché noi siamo anche, diciamo così, lavoriamo con una pagina internet che è Movimento Balneare e movimentobalneare.it su web, che sono migliaia le chiamate di fornitori nostri che ci dicono che stanno chiudendo perché i balneari non stanno più comprando attrezzature perché hanno paura di queste aste nel 2016. Le aste, le evidenze pubbliche che noi chiamiamo, diciamo così, tra virgolette, volgarmente aste, per far capire bene la situazione, distruggeranno questo mondo per dare spazio alle grandi multinazionali, forse anche del cemento, a diciamo così, soldi che non si saprà da dove arrivano, perché pensi lei, 300.000 evidenze pubbliche in un anno sulle coste italiane, quando sappiamo che l'unico mercato che andrà in incremento nei prossimi anni sarà il turismo. Qui arriveranno da tutti, da tutto il mondo, di tutti i tipi, e noi non ci salveremo se non blocchiamo le evidenze pubbliche sugli stabilimenti balneari. Qui è un mondo che andrà alla distruzione. Ora stanno già chiudendo molte imprese dell'indotto, ma nei prossimi anni inizieranno anche gli stabilimenti balneari se non si arriverà alla soluzione. Allora, anche voi parteciperete alla iniziativa del 12 luglio a Roma, Giannessi? Allora, quella che c'è, i sindacali andranno il giovedì a Roma. Esattamente. Noi seguiremo, perché abbiamo un contatto diretto, veniamo chiamati, noi siamo un mondo di Facebook, diciamo così, siamo nati su Facebook, infatti, per quanto riguarda il movimento balneare, e le dico, siamo pronti a tutto. Perché? Perché lei faccia conto che quando abbiamo acquistato gli stabilimenti balneari siamo andati dalle banche. Le banche ci hanno chiesto: ma come fa lei a chiedermi 1, 2, 3 milioni di euro? E noi gli abbiamo detto: c'è una legge italiana che prevede il rinnovo automatico. Loro hanno chiamato i notai, hanno certificato che l'articolo 37,2 prevedeva un rinnovo automatico concessioni demaniali, e ci hanno dato i soldi facendo ipoteca sugli stessi stabilimenti balneari. Cioè le banche d'Italia hanno centinaia di migliaia di ipoteche sugli stabilimenti balneari d'Italia che andranno all'asta. Allora guardi, io sono sicura che al 2016 arriverete a questo appuntamento, forse con più serenità, perché se si mette in campo la lobby bancaria anche per aiutarvi, magari le cose non arriveranno a questo appuntamento appunto in maniera così drammatica. Però io adesso vorrei fermarmi sulla questione delle concessioni demaniali e il regime appunto dei rinnovo che potrebbe essere bloccato, perché non era questo il tema della trasmissione, anche se so che diventa anche questo il tema della trasmissione nel momento in cui voi dovete organizzare politiche commerciali che guardano anche a questo appuntamento e vi ci fa guardare con grande preoccupazione. Dobbiamo andare adesso verso la conclusione della nostra trasmissione, magari dando qualche indicazione utile alle famiglie per capire anche come trovare l'operatore sulla spiaggia, corretto naturalmente e trasparente nel suo comportamento. Una rapida testimonianza da Andrea da Firenze. Buongiorno Andrea, rapidissimo, perché in realtà devo chiudere fra un minuto, 30 secondi. Buongiorno. Rapido. Io ho 47 anni, sono 30 anni che vado in Versilia domenica scorsa ho preso l'ombrellone al bagno comunale e regolarmente, come sempre mi è accaduto, non mi è stata rilasciata ricevuta fiscale. Allora lo segnaliamo al nostro operatore toscano, a Oreste Giannessi, appunto, che vada un po' a controllare anche quello che fanno i suoi colleghi sulle medesime spiagge. Io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi questa mattina: Giancarlo Cappelli, Fabrizio Licordari, Cristiano Tomei, Oreste Giannessi. Terremo sotto controllo anche la serrata degli stabilimenti balneari, se ci sarà. Intanto a tutti coloro che se lo possono permettere, con serenità, godetevi le nostre spiagge, godetevi il nostro mare, sono l'invidia di tutto il mondo. A domani.